10. È lo stesso sogno, sempre. La chiesa, la bara. Peter suona il violino, Joseph impugna il tomahawk. Un guerriero lo aiuta a scavare. Ora lo riconosco, Ronate Rionte. La terra è dura, le unghie spezzate buttano sangue, la terra si bagna. Ogni goccia è una foglia scarlatta. La chiesa scompare, al suo posto una foresta d'aceri in pieno autunno. Seduto su un masso, William benedice con un sorriso gli sforzi di Joseph e del guerriero. Ha il volto dipinto e un sonaglio di tartaruga. Mi avvicino, siedo sulle sue ginocchia, gli accarezzo le labbra. «Chi c'è nella bara, William?» Lui risponde, ma è una lingua sconosciuta. Un vento di tramontana porta via le parole. Sul fiume appare una canoa. A bordo una ragazza. William sale e mi porge la mano. «Accompagnami nel giardino, amore mio, al centro dell'acqua!» Joseph e il guerriero caricano la bara. La canoa risale la corrente. Di colpo mi trovo nella casa di Kana Yoharie, sopra l'emporio. Stringo la mano della ragazza. Gli occhi hanno il colore del fiume. I figli dormono, io mi sto per svegliare.